Epilogo. La notte scorsa è morto mio nonno. Non è morto come un cane, come temeva, ma tranquillamente fra le mie braccia, confondendomi con Clara e a tratti con Rosa, senza dolore, senza ansia, cosciente e sereno, più lucido che mai e felice. Ora è disteso nel veliero, nell'acqua quieta, sorridente e calmo, mentre io scrivo sul tavolo di legno rosso che era di mia nonna. Ho aperto le tende di seta azzurra finché entri il mattino e rallegri la stanza. Nella gabbia antica, vicino alla finestra, c'è un nuovo canarino che canta e in mezzo alla camera mi guardano gli occhi di vetro di Barrabás. Mio nonno mi aveva raccontato che Clara era svenuta il giorno che lui, per farle una sorpresa, le aveva sistemato la pelle dell'animale come tappeto. Avevamo riso fino alle lacrime e avevamo deciso di andare a cercare in cantina le spoglie del povero vecchio Barrabás, superbo nella sua indefinibile costituzione biologica, nonostante il passare del tempo e l'abbandono, e di metterlo nello stesso posto dove mezzo secolo prima l'aveva messo mio nonno in omaggio alla donna che più aveva amato nella sua vita. Lo lasceremo qui dove avrebbe dovuto sempre stare, aveva detto il nonno. Arrivai a casa, in una luminosa mattina invernale, su una carretta tirata da un cavallo magro. La strada, con la sua duplice fila di castani centenari e le sue dimore signorili, sembrava uno scenario non consono a quel veicolo modesto, ma quando si fu fermato davanti alla casa di mio nonno, si incastonava perfettamente allo stile. La grande casa dell'angolo era più triste e più vecchia di quanto io ricordassi. Assurda nelle sue eccentricità architettoniche e nelle sue pretese di stile francese, con la facciata coperta di edera malata. Il giardino era un viluppo di cespugli e quasi tutte le imposte pendevano dai cardini. Il cancello era aperto, come sempre. Suonai il campanello e un momento dopo udii delle pantofole che si avvicinavano e una serva sconosciuta mi aprì la porta. Mi guardò senza conoscermi e io sentii nelle narici il meraviglioso odore di legno e di chiuso della casa dove ero nata. Mi si riempirono gli occhi di lacrime. Corsi in biblioteca col presentimento che il nonno stesse aspettandomi dove stava sempre seduto ed era lì, rannicchiato nella poltrona. Mi sorpresi vedendolo così vecchio, così minuscolo e tremante e che del passato conservava solo la sua bianca chioma leonina e il suo pesante bastone d'argento. Ci abbracciammo strettamente, molto a lungo, sussurrando nonno, Alba, Alba, nonno. Ci baciammo e quando lui vide la mia mano ferita si mise a piangere e a maledire e a dare bastonate sui mobili come faceva prima e io mi misi a ridere perché non era così vecchio e così finito come mi era sembrato poco prima. Quello stesso giorno il nonno volle che ce ne andassimo dal paese. Aveva paura per me, ma io gli spiegai che non me ne potevo andare perché lontano da questa terra sarei stata come gli alberi che tagliano a Natale, quei poveri pini senza radici che durano un po' di tempo e poi muoiono. Non sono stupido, Alba, disse guardandomi fissamente. La vera ragione perché vuoi fermarti è Miguel, vero? Trasalì, io non gli avevo mai parlato di Miguel. Da quando l'ho conosciuto ho saputo che non avrei potuto portarti via di qui, figliola, disse con tristezza. L'hai conosciuto? È vivo, nonno! Lo scossi afferrandolo per il vestito. Beh, lo era la settimana scorsa quando ci siamo visti l'ultima volta, disse. Mi raccontò che dopo il mio arresto una notte era apparso Miguel nella grande casa dell'angolo. Per poco non gli era venuto un colpo dallo spavento, ma dopo qualche minuto aveva capito che entrambi avevano un interesse comune, liberarmi. Poi Miguel era tornato spesso a trovarlo, gli faceva compagnia e univano gli sforzi per cercarmi. Era stato Miguel che aveva avuto l'idea di andare da transito sotto, al nonno non era mai venuto in mente. Mi dia retta, signore, io so chi ha potere in questo paese, la mia gente è infiltrata in tutti i posti. Se c'è qualcuno che può aiutare Alba in questo momento, quella persona è Transito Soto, gli aveva assicurato. Se riusciamo a toglierla dalle grinfie della polizia politica, figliolo, dovrà andarsene di qui. Andatevene insieme, posso procurarvi salvacondotti e non vi mancherà denaro, aveva offerto il nonno. Ma Miguel aveva guardato come se fosse stato un vecchietto rimbambito. E aveva cominciato a spiegargli che lui ha una missione da compiere, che non può scapparsene via. E ho dovuto rassegnarmi all'idea che resterai qui, nonostante tutto, disse il nonno abbracciandomi. Adesso raccontami tutto, voglio sapere fino all'ultimo particolare. Sicché glielo raccontai. Gli dissi che dopo che mi si era infettata la mano perché mi avevano tagliato le dita, mi avevano portata in una clinica segreta dove mandavano i prigionieri che non hanno interesse a lasciar morire. Lì mi aveva curato un medico alto dai lineamenti eleganti, che sembrava odiarmi quanto il colonnello Garcia e che si rifiutava di darmi dei calmanti. Approfittava di ogni medicazione per espormi la sua teoria personale rispetto al modo di liquidare il comunismo nel paese e, se possibile, nel mondo, ma a parte questo mi lasciava in pace. Per la prima volta, dopo molte settimane, avevo lenzuola pulite, cibo a sufficienza e luce naturale. Si occupava di me Rojas, un infermiere dal corpo massiccio e dalla faccia tonda, vestito con un camice celeste sempre sporco e dotato di grande bontà. Mi imboccava. Mi raccontava interminabili storie di remote partite di calcio disputate tra squadre che io non avevo mai sentito nominare e si procurava dei calmanti per iniettarmeli di nascosto finché non riuscì a frenare il mio delirio. Rojas aveva curato in quella clinica una fila interminabile di disgraziati. Aveva appurato che nella maggioranza non erano assassini né traditori della patria, per questo era ben disposto verso i prigionieri. Come finiva di rammendare qualcuno, subito gliene portavano uno nuovo. È come gettare sabbia nel mare, diceva con tristezza. Aveva saputo che qualcuno gli aveva chiesto di aiutarlo a morire, e almeno in un caso credo che l'avesse fatto. Rojas teneva un conto rigoroso di quelli che entravano e uscivano e poteva ricordare senza incertezze i nomi, le date e le circostanze. Mi giurò che non aveva mai sentito parlare di Miguel e ciò mi restituì il coraggio di continuare a vivere, sebbene talvolta cadessi in un nero abisso di depressione e cominciassi a recitare la cantilena del Voglio morire. Lui mi raccontò di Amanda. L'avevano arrestata nella mia stessa epoca, quando l'avevano portata da Rojas, ormai non c'era più niente da fare. Era morta senza denunciare suo fratello, mantenendo la promessa che gli aveva fatto molto tempo prima, il giorno in cui l'aveva portato per la prima volta a scuola. L'unica consolazione è che era capitato molto più in fretta di quanto avrebbero desiderato, perché il suo organismo era molto infiacchito dalla droga e dall'immensa desolazione in cui l'aveva lasciata la morte di Jaime. Rojas mi curò finché non mi calò la febbre. Cominciò a cicatrizzarmi sì la mano e a tornarmi il coraggio, e allora non ebbe più pretesti per continuare a trattenermi, ma non mi rimandarono in mano a Esteban Garcia come temevo. Immagino che in quel momento fosse intervenuta l'influenza benefica della donna dalla collana di perle, che siamo poi andati a trovare col nonno per ringraziarla di avermi salvata la vita. Quattro uomini vennero a prelevarmi di notte. Rojas mi svegliò, mi aiutò a vestirmi e mi augurò buona fortuna. Lo baciai riconoscente. Addio, ragazzina, si cambi le fasciature, non se le bagni, e se le torna la febbre è perché si è di nuovo infettata, mi disse dalla soglia. Mi condussero in una cella stretta dove trascorsi il resto della notte seduta su una seggiola. Il giorno dopo mi portarono in un campo di concentramento per donne. Non potrò mai, mai dimenticare quando mi tolsero la benda dagli occhi e mi ritrovai in un cortile quadrato e luminoso, circondata da donne che cantavano per me l'inno dell'allegria. La mia amica, Ana Diaz, era tra loro e corse ad abbracciarmi. Mi sistemarono in fretta su una lettiga e mi fecero conoscere le regole della comunità e le mie responsabilità. Finché non sei guarita, non devi né lavare né cucire, ma devi badare ai bambini, dissero. Io avevo resistito all'inferno con una certa fermezza, ma quando mi sentii in compagnia di quelle donne mi spezzai. La minima parola affettuosa mi provocava una crisi di pianto. Passavo la notte con gli occhi aperti nel buio, in mezzo alla promiscuità delle donne che si davano il turno per vegliarmi e non mi lasciavano mai sola. Mi aiutavano quando cominciavano a tormentarmi i brutti ricordi, o mi appariva il colonnello Garcia a immergermi nel terrore, o Miguel mi rimaneva stretto in un singhiozzo. Non pensare a Miguel. Mi dicevano, insistevano, non bisogna pensare alle persone amate né al mondo che c'è dall'altra parte di queste mura, è l'unico modo per sopravvivere. Ana Diaz trovò un quaderno da scuola e me lo regalò. Perché tu scriva? Vediamo un po' se riesci a tirare fuori da dentro quello che sta facendoti marcire, a guarire una volta per tutte e a cantare con noi e ad aiutarci a cucire, mi disse. Le mostrai la mia mano e feci segno di no con la testa, ma lei mi mise la matita nell'altra e mi disse di scrivere con la sinistra. A poco cominciai a farlo. Cercai di mettere in ordine la storia che avevo cominciato nella cella di isolamento. Le mie compagne mi aiutavano quando perdevo la pazienza e la matita mi tremava in mano. Certe volte gettavo via tutto, ma subito raccoglievo il quaderno, lo lisciavo morosamente, pentita perché non sapevo quando avrei potuto procurarmene un altro. Altre volte mi svegliavo triste e piena di presentimenti, mi voltavo verso la parete e non volevo parlare con nessuno, ma loro non mi lasciavano, mi costringevano a lavorare, a raccontare storie ai bambini, mi cambiavano le fasciature con cura e mi mettevano davanti il quaderno. Se vuoi ti racconto la mia storia perché tu la scriva, mi dicevano, ridevano, mi prendevano in giro, aggiungendo che tutte le storie erano uguali e che era meglio scrivere racconti d'amore perché piacciono a tutti. Mi costringevano anche a mangiare. Spartivamo le porzioni con molta giustizia, a ciascuna secondo le sue necessità, e a me ne davano un po' di più perché dicevano che ero pelle e ossa, e così nemmeno l'uomo più arrapato si sarebbe ficcato con me. Mi spaventavo, ma Anna Diaz mi ricordava che io non ero l'unica donna violentata e che questo, come molte altre cose, bisognava dimenticarselo. Le donne passavano la giornata cantando a squarciagola, i carabinieri picchiavano contro il muro. Zitte, puttane! Fateci stare zitte se ne siete capaci, cornuti! Vediamo se ne avete il coraggio! E continuavano a cantare più forte, e loro non entravano perché avevano imparato che non si può evitare l'inevitabile. Cercai di scrivere i piccoli avvenimenti della sezione delle donne che avevano arrestato la sorella del presidente, che ci avevano tolto le sigarette, che erano arrivate nuove prigioniere, che Adriana aveva avuto un altro dei suoi attacchi e si era scagliata sui suoi figli per ammazzarli, glieli avevamo dovuti togliere dalle mani, e che io mi ero seduta con un bambino su ogni braccio per raccontargli i racconti magici dei bauli incantati dello zio Marcos, finché non si erano addormentati. Mentre io pensavo al destino di quelle creature che crescevano in quel luogo, con la madre impazzita, accuditi da altre madri sconosciute che non avevano perso la voce per una ninna nanna, né il gesto per un conforto. E mi chiedevo, scrivevo, in che modo i figli di Adriana avrebbero potuto restituire la canzone e il gesto ai figli o ai nipoti di quelle stesse donne che li coccolavano. Rimasi nel campo di concentramento pochi giorni. Un mercoledì sera vennero a prendermi i carabinieri. Ebbi un momento di panico pensando che mi avrebbero portata da Esteban Garcia, ma le mie compagne mi dissero che se indossavano la divisa non erano della polizia politica e questo mi tranquillizzò un po'. Lasciai a loro il mio gilet di lana perché lo disfacessero e potessero farne qualcosa di pesante per i bambini di Adriana e tutto il denaro che possedevo quando mi avevano arrestata e che con la scrupolosa onestà che hanno i militari per le cose futili mi avevano restituito. Mi infilai il quaderno nei pantaloni e le abbracciai tutte una per una. L'ultima cosa che udii allontanandomi fu il coro delle compagne che cantavano per farmi coraggio, proprio come facevano con tutte le prigioniere che arrivavano o se ne andavano dall'accampamento. Io piangevo, lì ero stata felice. Raccontai al nonno che mi avevano portata in un furgone con gli occhi bendati durante il coprifuoco. Tremavo tanto che udivo il battere dei miei denti. Uno di quegli uomini che stava con me nella parte posteriore del veicolo mi mise una caramella in mano e mi diede una pacca affettuosa sulla spalla. Non si preoccupi, signorina, non le succederà niente, stiamo per liberarla e tra qualche ora starà con la sua famiglia, disse in un sussurro. Mi lasciarono presso un immondezzaio vicino al quartiere della Misericordia. Lo stesso che mi aveva dato la caramella mi aiutò a scendere. Attenta al coprifuoco, mi soffiò all'orecchio, non si muova fino all'alba. Udii il motore e pensai che mi avrebbero schiacciata e che poi sulla stampa sarebbe apparso che ero morta vittima di un incidente stradale, ma il veicolo si allontanò senza toccarmi. Aspettai un po', paralizzata dal freddo e dalla paura, finché non mi decisi a togliermi la benda per vedere dove mi trovavo. Mi guardai intorno, era un posto vuoto. un campo pieno di immondizia dove alcuni topi correvano in mezzo ai rifiuti. Brillava una luna tenue che mi permise di vedere da lontano il profilo di una miserabile borgata di cartoni, lamiere e assi. Capii che dovevo osservare la raccomandazione della guardia e rimanere lì finché non fosse stato chiaro. Avrei trascorso la notte nell'immondezzaio se non fosse arrivato un ragazzino chino fra le ombre a farmi cenni segreti. Dato che non avevo niente da perdere, cominciai ad andare verso di lui, barcollando. Avvicinandomi, vidi il suo faccino ansioso, mi gettò una coperta sulle spalle, mi prese per mano e mi portò al paese senza dire una parola. Camminammo rannicchiati, evitando la strada e i pochi lampioni che erano accesi. Alcuni cani facevano rumore con i loro latrati, ma nessuno sporse la testa per indagare. Attraversammo un cortile di terra dove pendevano come stendardi da un fil di ferro pochi indumenti, ed entrammo in una baracca sconquassata come tutte le altre da quelle parti. Dentro c'era una sola lampadina che illuminava tristemente l'interno. Mi commosse l'estrema povertà. Gli unici mobili erano un tavolo di pino, due seggiole rozze e un letto dove dormivano diversi bambini ammucchiati. Mi venne incontro una donna bassa, dalla pelle scura, con le gambe segnate da vene e gli occhi buoni, sprofondati in una rete di rughe, che non riuscivano a darle l'aspetto di una vecchia. Sorrise e vidi che le mancava qualche dente. Si avvicinò e mi sistemò la coperta con un gesto brusco e timido che sostituì l'abbraccio che non osò darmi. Le preparerò un tè. Non ho zucchero, ma le farà bene bere qualcosa di caldo, disse. Mi raccontò che avevano sentito il furgone e sapevano cosa significava un veicolo che circoli durante il coprifuoco in quei paraggi. Avevano aspettato finché non erano stati sicuri che se ne fossero andati e poi il bambino si era recato a vedere cosa avevano lasciato. Pensavano di trovare un morto. Talvolta vengono a gettarci qualche fucilato per incutere rispetto alla gente, mi spiegò. Rimanemmo a parlare il resto della notte. Era una di quelle donne stoiche e pratiche del nostro paese che con qualunque uomo che passa nella loro vita hanno un figlio e inoltre accolgono in casa i bambini che gli altri abbandonano, i parenti più poveri e chiunque abbia bisogno di una madre, una sorella, una zia, donne che sono il pilastro centrale di molte vite estranee, che allevano figli perché anche loro se ne vadano e che vedono andarsene i loro uomini senza un rimprovero, perché hanno altre urgenze maggiori di cui occuparsi. Mi sembrò uguale a tante altre che avevo conosciuto nelle mense popolari, nell'ospedale di mio zio Jaime, al vicariato dove andavo a indagare per i loro scomparsi, all'obitorio dove andavano a cercare i loro morti. Le dissi che aveva corso un bel rischio ad aiutarmi e lei sorrise. Allora capii che il colonnello Garcia e altri come lui hanno i giorni contati perché non hanno potuto distruggere lo spirito di quelle donne. Al mattino mi accompagnò da un compare che aveva una carretta tirata da un cavallo. Gli chiese che mi portassero a casa, sicché sono arrivata qui. Per strada ho visto la città nel suo terribile contrasto, le baracche circondate da palizzate per dare l'illusione che non esistano, il centro agglomerato e grigio e il quartiere alto con i suoi giardini all'inglese, i suoi parchi, i suoi grattacieli di vetro e i suoi bambini biondi che passeggiavano in bicicletta. Persino i cani mi sembravano felici, tutto in ordine, tutto pulito, tutto tranquillo e quella solida pace della coscienza senza memoria. Questo quartiere è come un altro paese. Il nonno mi ascoltò tristemente. Stavano sgretolandosi gli ultimi pezzi del mondo che lui aveva creduto buono. Visto che ci fermeremo qui per aspettare Miguel, mettiamo un po' a posto questa casa, disse infine. E così abbiamo fatto. All'inizio passavamo la giornata in biblioteca, inquieti, pensando che avrebbero potuto tornare per portarmi un'altra volta da Garcia, ma poi abbiamo deciso che la cosa peggiore è avere paura della paura, come diceva mio zio Nicolas, e che bisognava occupare completamente la casa e cominciare a condurre una vita normale. Mio nonno ha ingaggiato un'impresa specializzata che l'ha percorsa dal tetto fino alla cantina, facendovi passare macchine pulitrici, nettando vetri, pitturando e disinfettando finché non è tornata abitabile. Mezza dozzina di giardinieri e un trattore hanno liquidato i cespugli, hanno portato erba arrotolata come un tappeto, un'invenzione prodigiosa dei Gringos, e in meno di una settimana avevamo persino betulle cresciute. Era tornata a zampillare l'acqua delle fontane canterine e di nuovo si levavano arroganti le statue dell'Olimpo, infine pulite da tanta cacca di colombo e da tanto oblio. Siamo andati insieme a comprare uccelli per le gabbie che erano vuote dopo che mia nonna, presentendo la morte, aveva aperto loro gli sportelli. Ho messo fiori freschi nei vasi e piatti con frutta sul tavolo come ai tempi degli spiriti e l'aria si è impregnata del loro aroma. Poi ci siamo presi a braccetto, io e mio nonno, e abbiamo visitato la casa, fermandoci in ogni punto per ricordare il passato e salutare gli impercettibili fantasmi di altri tempi che, nonostante tanti alti e bassi, continuano a stare ai loro posti. Mio nonno ha avuto l'idea di scrivere questa storia. Così potrai portare via con te le tue radici se un giorno dovrai andartene di qui, figliola, ha detto. Abbiamo dissotterrato dagli angoli segreti e dimenticati i vecchi album, ed ho qui sul tavolo di mia nonna una montagna di ritratti: la bella Rosa accanto a un'altalena scolorita, mia madre e Pedro Terzo Garcia a 4 anni mentre danno il gran turco alle galline nel cortile delle Tre Marie, mio nonno quando era giovane ed era alto 1,80 m, prova irrefutabile che si era compiuta la maledizione di Ferula e gli si era rimpicciolito il corpo nella misura in cui gli si era ristretta l'anima. I miei zii Jaime e Nicolás, l'uno taciturno e serio, gigantesco e vulnerabile, e l'altro asciutto e grazioso, volatile e sorridente. Anche la nana e i bisnonni del Valle, prima che si ammazzassero in un incidente, insomma, tutti meno il nobile Jean de Satigny, del quale non rimane alcuna testimonianza scientifica, e sono arrivata a dubitare persino della sua esistenza. Ho cominciato a scrivere con l'aiuto di mio nonno, la cui memoria è rimasta intatta sino all'ultimo istante dei suoi 90 anni. Di suo pugno ha scritto diverse pagine e quando ha ritenuto di aver detto tutto, si è steso nel letto di Clara. Io mi sono seduta a suo fianco ad aspettare con lui e la morte non ha tardato ad arrivare, tranquillamente, cogliendolo nel sonno. Forse sognava che fosse sua moglie quella che gli accarezzava la mano e lo baciava sulla fronte, perché negli ultimi giorni lei non l'aveva abbandonato neppure per un istante. Lo seguiva per casa, lo spiava da sopra la spalla quando leggeva in biblioteca e andava a letto con lui la sera, con la sua bella testa coronata di riccioli appoggiata alla sua spalla. Dapprima era un alone misterioso, ma a mano che mio nonno andava perdendo definitivamente la rabbia che l'aveva tormentato per tutta la sua esistenza, lei era apparsa così com'era, nei suoi tempi migliori, ridendo con tutti i suoi denti e sconvolgendo gli spiriti col suo volo fugace. Ci ha anche aiutati a scrivere, e grazie alla sua presenza, Esteban Trueba ha potuto morire felice, mormorando il suo nome, Clara, chiarissima, chiaroveggente. Nella cella di isolamento avevo scritto col pensiero che un giorno avrei avuto davanti a me il colonnello Garcia vinto e avrei potuto vendicare tutti quelli che devono essere vendicati. Ma ora dubito del mio odio. In poche settimane da quando sto in questa casa sembra che sia svanito, che abbia perso i suoi nitidi contorni. Sospetto che tutto quanto è successo non sia stato fortuito, ma che corrisponda a un destino disegnato prima della mia nascita, ed Esteban Garcia è parte di questo disegno. È un tratto rozzo e contorto, ma nessuna pennellata è inutile. Il giorno in cui mio nonno gettò a terra tra le erbacce del fiume sua nonna, Pancia Garcia, aggiunse un altro anello a una catena di eventi che dovevano compiersi. Poi il nipote della donna violentata ripeté il gesto con la nipote del violentatore. E tra 40 anni può darsi che mio nipote getti a terra fra i cespugli del fiume la sua e così via, per i secoli a venire, in una storia interminabile di dolore, di sangue e di amore. Nella cella di isolamento mi era parso di combinare un rompicapo in cui ogni pezzo ha un posto preciso. Prima di sistemarli tutti mi sembrava incomprensibile, ma ero sicura che se fossi riuscita a finirlo avrei dato un senso a ciascuno e il risultato sarebbe stato armonioso. Ogni pezzo ha una ragione di essere così com'è, compreso il colonnello Garcia. Ogni tanto ho la sensazione che questo l'ho già vissuto e che ho già scritto queste stesse parole, ma capisco che non sono io, bensì un'altra donna che aveva preso appunti sui quaderni affinché io me ne servissi. Scrivo, lei ha scritto che la memoria è fragile e il corso di una vita è molto breve e tutto avviene così in fretta che non riusciamo a vedere il rapporto tra gli eventi. Non possiamo misurare le conseguenze delle azioni. Crediamo nella finzione del tempo, nel presente, nel passato, nel futuro, ma può anche darsi che tutto succeda simultaneamente, come dicevano le tre sorelle Mora, che erano capaci di vedere nello spazio gli spiriti di ogni epoca. Per questo mia nonna Clara scriveva nei suoi quaderni, per vedere le cose nella loro dimensione reale e per schernire la cattiva memoria. E adesso io cerco il mio odio e non riesco a trovarlo. Sento che si spegne a mano che mi spiego l'esistenza del colonnello Garcia e di altri come lui, che capisco mio nonno e vengo a conoscenza delle cose attraverso i quaderni di Clara, le lettere di mia madre, i libri contabili delle Tre Marie e tanti altri documenti che ora stanno sul tavolo a portata di mano. Mi sarà molto difficile vendicare tutti quelli che devono essere vendicati, perché la mia vendetta sarebbe solo l'altra parte dello stesso rito inesorabile. Voglio limitarmi a pensare che il mio mestiere è la vita e che la mia missione non è protrarre l'odio, bensì unicamente riempire queste pagine mentre aspetto il ritorno di Miguel, mentre sotterro mio nonno, che ora riposa vicino a me in questa stanza, mentre attendo che arrivino tempi migliori, tenendo in gestazione la creatura che ho nel ventre. Figlia di tante violenze, o forse figlia di Miguel, ma soprattutto figlia mia. Mia nonna aveva scritto per 50 anni sui quaderni in cui annotava la vita. Trafugati da qualche spirito complice, si sono miracolosamente salvati dal rogo infame in cui sono perite tante altre carte della famiglia. Li ho qui, ai miei piedi, stretti da nastri colorati, separati per fatti e non per ordine cronologico, così come lei li ha lasciati prima di andarsene. Clara li ha scritti perché mi servissero ora per riscattare le cose del passato e sopravvivere al mio stesso terrore. Il primo è un quaderno di scuola di 20 pagine, scritto con una delicata calligrafia infantile. Comincia così: Barrabás arrivò in famiglia per via mare. Fine.